Capitolo 43. Or la carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate a comprare un po' di viveri». E Giuda rispose. Quell'uomo ce lo dichiarò categoricamente: «Non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Ma se non lo mandi, non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non vedrete la mia faccia se vostro fratello non sarà con voi». Israele disse: «Perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Quelli risposero: «Quell'uomo ci interrogò minuziosamente intorno a noi e al nostro parentado, dicendo: vostro padre vive ancora? Avete qualche altro fratello?» Noi gli rispondemmo secondo le sue domande. Non potevamo sapere che ci avrebbe detto: fate venire vostro fratello. Giuda disse a suo padre Israele: lascia venire il ragazzo con me. Ci leveremo e andremo. Così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandamene conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non avessimo indugiato a quest'ora, saremmo già tornati due volte». Allora Israele, loro padre, disse loro: «Se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono: un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate. Tornate da quell'uomo. Dio onnipotente vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia». Quelli presero dunque questo dono, presero con sé il doppio del denaro e Beniamino, e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: «Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi, con i nostri asini». Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: «Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri, e avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto, e l'abbiamo riportato con noi. Ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi». Ed egli disse: «Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro». E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi, ed egli diede del foraggio ai loro asini. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. E gli domandò loro come stavano e disse Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene? Vive ancora? Quelli risposero: Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora. Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, e disse: È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui: Dio ti sia propizio, figlio mio. E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia e uscì. Si fece forza e disse: Portate il pranzo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte, e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Ma essi sedevano di fronte a lui dal primogenito secondo il suo diritto di primogenitura fino al più giovane secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro stupiti. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella d'ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui.